L'assassino passa in fretta, come i titoli di coda, senza niente prima e niente dopo. Lui è il finale che non passa mai di moda. L'assassino passa.